comincia a cadere giù sopra la polvere, passa il vento e porta via il segno labile. Resto e ci penso su, è ora di muoversi, un saluto, un sorso e poi ancora.